later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'entropia continua a farla da padrona, l'amministratore delegato farfuglia tra sé e sé di piano A e piano B. Allora, Drago. Carta e penna, via. Ma come carta e penna? Da quando sono il suo valletto? Vabbè. Niente, non c'è il pollo, devi occupartene tu. Vabbè. Forza, non dai. Ok. Allora, scrivi. Dica. L'ormai prossimo concerto del gruppo rock dei Cocoriti. Stai scrivendo? Sì, Cocoriti. Servirà a rinsaldare la sensazione di fiducia. Ciao. Fiducia con la I, eh? Sì. Che la mia guida sta trasmettendo all'azienda. Azienda 2Z. Azienda, scrivilo maiuscolo. Sì. Basta con la tirannide del profitto mostrata in tutta la sua durezza. Punto esclamativo. Sai qual è il punto esclamativo? Quello dritto. Sì, va bene. Bisogna cominciare a indorare la pillola. Sì. Punto. Quindi, riassumendo, il piano A è rappresentato dall'effetto slalom per fronteggiare l'effetto domino determinato dalla decapitazione dei vertici dell'azienda a livello planetario. Tre puntini. Il piano B è costituito dal indorare la pillola. Quindi? Quindi da oggi tutti in azienda all'ora che si vuole. Sì. In tuta o in vestaglia? Tutto vestaglia. Virgola. Spettinati, virgola. Trasandati e sporchi. Anche sporchi? Sì, anche sporchi. Metti sporchi che fa figo. Sporchi. E poi, dulcis in fundo, virgola, sì. Il festival pop con i Cocoriti. Oh, beh, festival pop. Chiaro? Sì. Allora, questa me lo trascrivi grosso, mi fai una specie di gobbo che devo leggerlo durante il consiglio di amministrazione fingendo di improvvisarlo. Va bene. Ok, Drago? D'accordo. Contento, è di questo concerto, le piace questa cosa? Un po' depresso. Un po' depresso? Eh sì, non capisco neanche perché mi entusiasmo così, visto che sta roba qua, tanto non serve a niente. La fabbrica di polli. Ma non fare questi versacci quando mangi, eh? E soprattutto perché mangi sempre? Perché ho famo. Famo. E poi se non mangio non mi godo lo spettacolo, Drago. Proprio panem et circenses, come no, dicevano i latini. No, Kirkenses. Kirkenses, giusto, sì, proprio così, no? Dunque, anche tu, mangiati un hamburger, stai un po' zitto, guarda l'incontro. Mica tutti i giorni siamo qui a guardare un bel incontro di box tra due galli di razze diverse, ma tanto, ma sì, ma tanto vince il nero, si vede già. Ma chi? No? Black Magic Cock. Sì, vabbè, vatte la pesca, come si chiama? No, si chiama Black Magic Cock. Black appartiene a una famosa ereditiera appassionata di galli, anzi direi di più, devota ai galli. Si direbbe devoted to cocks in inglese, no? Interessante questa ereditiera. Comunque l'amministratore delegato sta cominciando a insospettirmi con questa sua improvvisa voglia di tempo libero. Perché? Ma come, perché? Non hai notato che ormai in azienda c'è proprio il lassismo? Le cose non sono più come prima, i polli sono liberi di andare dove vogliono. I turni di macellazione sono praticamente stati sospesi. Vabbè, ma è per via dell'effetto domino. Ma cosa? Questa stagnazione, stanno tutti aspettando l'onda, Drago. E poi dopo, quando arriverà l'onda, comincerà lo slalom. Si parla anche di fusione con un concorrente, In quel caso, in attesa di fusione, si sta tutti fermi al proprio posto come lo scarafaggio. Lo scarafaggio se lo sente che qualcuno, prima o poi, sposterà quel mobile sotto il quale si è rifugiato. Però lo scarafaggio sta fermo e aspetta. Se poi nessuno sposta il mobile, tanto meglio. Ah, e quindi l'amministratore delegato è uno scarafaggio, come in quel libro di Frank Zappa. Le nozioni di primo di classe. La metamorfosi, titolo originale Die Verwandlung, racconto dello scrittore boemo Franz Kafka, da non confondere con musicista baffuto italo-americano Frank Zappa. Nel racconto, un uomo chiamato Gregor Samsa si trasforma senza alcun motivo in uno scarafaggio e muore tra il disprezzo dei familiari e di umano consorzio. Sterbe doch, du blöde Schabe! Das ist keine Werbung. Das ist eine Verstellung. Alle Menschen ähnliche Bewegung. Durch die Elektrizitätsleitung. Lineare Verstärkung. La fabbrica di polli. Uè, pollastri. Pollo in sbattimento. Fermi, dovete darmi una mano, Vabbè. No, perché io sono in sbattimento durissimo, E questo dura un sacco di tempo. Vabbè. Io non so quanto posso resistere, A dare una mano a te, ma nemmeno per sogno. Ma perché? Come nemmeno per sogno? Scusate, a me servono due polli meno imbecilli della media. E voi fate a caso mio, no? Senti una cosa, tu rifletti un po' su come parli, Pollo, perché hai usato il verbo servire. Servire. E quindi se ti serviamo, allora siamo tuoi amici, altrimenti no. Non è carino questo, non va bene, capito? Come non va bene? No. Vabbè, allora, non ho capito. Cioè, se non mi servite, cosa parliamo a fare? Così, tanto per parlare. Esiste anche quello, sì, tra persone anche pur parler. Ci si parla anche senza rapporti di interesse. Però dovete dirlo prima. Io questo non lo sapevo mica. Ma vedi, Cap, è così. Non puoi nemmeno prendertela con lui, perché lui è un bastardo naturale, inconsapevole, proprio così. Allora, adesso basta però, La piantiamo con ste boiate. Io ho bisogno di voi due, perché così siamo in quattro, no? Ma siamo in quattro chi? Ma chi? Ma come chi? Io, Tareco, voi due, no? Siamo quattro, casualmente, come i quattro coccoletti bloccati in Brasile, no? Anche quattro come i Beatles, come i musicanti di Brema, la banda dei quattro in Cina, i Fantastici Quattro. E con ciò... Vabbè, allora non hai capito. Non ho detto coccoletti per caso. Visto che i coccoletti, come vi ho già detto, devono restare là, questa maledetta malattia che hanno, sto cavolo di Douglas, noi possiamo sostituirli, no? Sì, vabbè, Cappa con l'ukulele e noi a cantare come degli ubriaconi. Ma no, ma facciamo tutto in playback, no? No, io voglio suonare dal vivo, Vabbè, col banjolele. Ma poi non siamo nemmeno lontanamente simili a dei cocoriti, anche qui. Vabbè, ma cosa vuol dire? Basta un bel travestimento? Vabbè, ma quando sarebbe l'esibizione? Ma quale esibizione? No, drago, col banjolele. Ma c'è ancora tempo, Però intanto bisogna prepararsi, Ma l'amministratore delegato se ne accorgerà, ragazzi, basta. Beh, se per quello si accorgerà anche che usate il suo bagno, Ma sai che usiamo il suo bagno, scusa? Io lo so. Ma cosa fai? Ci spii mentre siamo in bagno? Ma no! Ma a me fate schifo, cosa vuoi che vi spio? Vabbè, non si sa mai. Però visto che trovate in nascosto, no? Vabbè, comunque non ho nessuna intenzione di travestirmi e di cantare da cocorito, quindi io direi di chiudere qui questa conversazione. Ma no, ma io come faccio allora? Mi interessa. Ma voi ragazzi, io se fallisco questa missione, l'amministratore mi sbatte a combattere sul ring, Ma chi se ne frega? No, dai, insomma. Drago, povero Polo. Ma come povero Polo? Black Magic Cock. Ma non far ridere i Polo. No, oppure peggio ancora, quello lì mi fa fare Extreme Crossing, Extreme Crossing. Che cosa succederà adesso? Che cos'è l'apparentemente temuto Extreme Crossing? Perché la puntata finisce proprio quando cominciava a diventare interessante? Lo saprete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo estremizzante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.